you're under arrest. Yo. Allora, come ti sbagli, la tua radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9 del Radio Onda Rossa, l'unica radio che non se pia. Sono quasi 40 anni che viaggiamo liberi e senza padroni, senza pubblicità, senza quelli infami dei partiti e, come dice il Fedingo, pure senza arrivati. Allora, sono le 16:16 qua via De Volci, San Lorenzo, Roma, sempre col quarto d'ora accademico Attica Blues, molto meglio che col fuso orario di Kingston. E beh sì, come al solito andiamo a finire su quell'isoletta, ma no, non è proprio così. Parliamo di musica che viene da quell'isoletta, ma in realtà è tutta roba fatta in Italia. Allora, per introdurre così gira che te rigira, ho trovato un brano del buon Ginko, il Mappamondo, dal suo Musica Ribelle. Sien. Voglio voglio visitare ogni angolo del mondo. In un secondo divento un vagabondo ed inizio un viaggio per conoscerlo a fondo. Yo, l'accendo lo giro, sopra ci metto il dito in un punto preciso ed esce fuori un paese. Fa freddo un casino, sembra di stare in un frigo e rifiuto l'invito di un amico eschimese. La rotta inverto, punta a sud e mi perdo giù nel pieno deserto, queste more di sete. Scappo di fretta e raggiungo una galetta in una bella isoletta nell'arcipelago malese. Ma accoglie un anziano che mi stringe la mano, ma gli parlo in romano, tanto non sa l'inglese. È nato un rituale con la danza tribale e mi metto a ballare come un balinese. Non lo so se mi fermerò per un altro po'. E allora il telefono è sempre lo stesso da 36 anni, Ginko Kikimbak. Questa è la sua Il Mappamondo. Bevo con parsimonia che non è sangiovese, sta a capire. Ho voglia di viaggiare e andare via da qua. Sono stanco e non mi piace la presunta civiltà. Ci sta tanto da imparare esplorando altre realtà. Guardo lì sullo scaffale, il mappamondo è sempre là. Com'è rotondo questo mappamondo, voglio visitare ogni angolo del mondo. In un secondo divento un vagabondo ed inizio un viaggio per conoscere. In un secondo, sì. L'accendo lo giro, sopra ci metto il dito in un punto preciso ed esce fuori un paese. Fa freddo un casino, sembra di stare in un frigo e rifiuto l'invito di un amico eschimese. La rotta inverto, punta a sud e mi perdo giù nel pieno deserto, queste more dei sete. Oh, wow. Scappo di fretta e raggiungo una galetta in una bella isoletta nell'arcipelago malese. Ma accoglie un anziano che mi stringe la mano, ma gli parlo in romano, tanto non sa l'inglese. È nato un rituale con la danza tribale e mi metto a ballare come un balinese. Non lo so se mi fermerò per un altro po', almeno un mese. O me ne andrò, perché se no non vedrò un altro paese. Com'è rotondo questo mappamondo, voglio visitare ogni angolo del mondo. In un secondo divento un vagabondo ed inizio un viaggio per conoscerlo a fondo. Com'è rotondo questo mappamondo, voglio visitare ogni angolo del mondo. In un secondo divento un vagabondo ed inizio un viaggio per conoscerlo a fondo. Ora sto sulle Ande, l'orizzonte si espande, il cammino eccitante tra le valli scoscese. Scendo in Amazzonia, inizia una cerimonia, bevo con parsimonia che non è sangiovese. Il capovillaggio non è mica un selvaggio e combatte con coraggio sulle terre contese. Faccio una collana, salto sopra una liana, tiro alla cerbottana, tu papà gliel'ho prese, vado fino in Cina. E allora, come vi dicevo già giovedì scorso, quello prima avevo fatto sega, quello prima ancora no, vabbè, insomma, come vi dicevo giovedì scorso, questa settimana e la prossima settimana stiamo a presentare dei lavori, avremo degli ospiti in studio. Perché se no non vedrò un altro paese. Ho voglia di viaggiare e andare via da qua. Sono stanco e non mi piace. Oggi ci sono venuti a trovare i Percezione Sesto Senso da Atri, che questa sera presentano il loro primo lavoro a Intifada con vari ospiti. Bella regà, buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera a tutti. Dare ogni angolo del mondo, in un secondo divento un vagabondo ed inizio un viaggio per conoscerlo a fondo. Com'è rotondo questo mappamondo, voglio visitare ogni angolo del mondo. Sono qua accompagnati anche da Flaminio Flasco, che insomma state a capire, Flasco dei Neurologici. Ciao Flami. Ciao a tutti. E allora, la gente non canta e che non mi risponde mai in coro, sta caracca è tutta per loro, sì. E così li potremo svegliare. Ah, wow. Come vi dicevo prima, stasera a Intifada ci saranno i Percezione Sesto Senso con Giuliano Lugarini, che stiamo ascoltando, Giulio Clandestino Ferrante, Giorgio Sen, Rasta Blanco dai Radici nel Cemento. È da un po' che la gente non canta e che non mi risponde mai in coro, sta caracca è tutta per loro, che così li potremo svegliare. Non c'hanno la casa, non c'hanno i figli, non c'hanno più tempo, non c'hanno lavoro, sta caracca è tutta per loro, che così li potremo svegliare. Non c'hanno memoria, non c'hanno più storia, hanno fatto la fine dei gocci nel foro, sta caracca è tutta per loro, che così li potremo svegliare. mondo ci avesse ridotto con un po' meno fiacca e meno tristezza. Invece di da una caracca, pensavamo a fa una carezza. Ma dato che il mondo muore, se fretta il cuore e voce se stacca, ci vuole una sveglia per tonno pesante. Un saluto a sé col campione che è volato a trovarci, sen. Una caracca a Roma ce vo. Alla fine dell'umanità, una caracca a Roma ce vo. Per farci aprire l'occhio e farci tarpa la vita che stiamo a buttare. Hanno fatto la fine dei Gocci del Foro, sta a capisi? Gente non canta e che non mi risponde mancoro. Sta caracca è tutta per loro e così li potremo svegliare. Non c'hanno la casa, non c'hanno i figli, non c'hanno più tempo, non c'hanno lavoro. Sta caracca è tutta per loro e così li potremo svegliare. Non c'hanno memoria, non c'hanno più storia, hanno fatto la fine dei Gocci nel Foro. Sta caracca è tutta per loro e così li potremo svegliare. Come fanno ormai da decenni, Bonno sta fermi a far finta di niente, ma la botta di suono sapiente dentro la panza gli ha da rintronà. E allora suoniamo il tamburo e la terra famo tremare. Falla tremare sta terra, Giuliano. Ma insomma ragazzi, stasera c'è pure Giuliano con voi? Sì, questa sera Giuliano è con noi alle percussioni in via del tutto eccezionale, sperimentale anzi, facciamo, è un esperimento che facciamo. Io me lo ricordo, sin da Pischello noi lavoravamo tanti anni fa insieme anche in studio, come suonava, andava in trance, cioè da quando andò la prima volta a Cuba, da quando sì. È tornato, anzi lo saluto con l'occasione de, se mai fosse in ascolto. E, che non sì, sì, sì. E anche Danila ovviamente. Bless ovunque voi siete. Non c'hanno la casa, non c'hanno i figli, non c'hanno più tempo, non c'hanno lavoro. Sta caracca è tutta per loro e così li potremo svegliare. Non c'hanno memoria, non c'hanno più storia, hanno fatto la fine dei Gocci del Foro. Sta caracca per noi e per loro e così se potremo svegliare. Pure per noi sta caracca. Allora andiamoci subito a sentire un pezzo dal CD Coinè dei Percezioni di Sesto Senso, che da questa sera insomma sarà disponibile a Intifada. Ovviamente che potremo suonare il primo, che si chiama Percezione Sesto Senso, appunto. Yeah. Baseline. Libera Senti, ma insomma, sta soletto chi l'ha fatto? Sì, questo è una, diciamo, una chicca che noi abbiamo voluto inserire in questo brano. È una collaborazione con Alex Ricci, che è attualmente il chitarrista degli Aprella Class, quindi che è un nostro compaesano. Sì. Voi venite da Atri? Sì, Atri, provincia di Teramo. Provincia di Teramo. Sì, in Abruzzo. Senti, io vi seguo su Facebook, no? Sì. E ho visto che c'è stava la neve, vabbè, si vede pure dalle leggere. Gliel'avete fatta arrivare, quindi. Ce l'abbiamo fatta. Quanto ci avete messo a arrivare a Roma? Scende dalle montagne. Ci abbiamo messo un bel po'. Ci abbiamo messo un bel po', considerando che lì, diciamo, al paese c'è praticamente mezzo metro di neve. Sì. Che guardando qui fuori dalla finestra sembra proprio un altro mondo. Un'altra nazione. Un'altra però, nazione. Dai. Eh sì, qua via De Occi c'è il sole, no, mi sono allargato, però insomma la neve non ci sta. Si sta bene. Sentite, insomma, questo CD che è il vostro primo lavoro, giusto? Sì, sì, questo è il nostro primo album, è uscito il 27 aprile del 2013, appunto dal titolo Koinè, poi magari diremo meglio perché. È appunto uscito sotto la etichetta Istrix Records, è tutto miscelato dalle sapientissime mani di Bruno Avramo, a.k.a. Forma d'onda. Yes, grande Bruno. Esatto, che Bruno, è anche state a capire, Bruno, Man Bruno, Bruno. Sì, esatto, sì, che è anche sì, il nostro tecnico del suono live, sì. Quindi sì, vabbè, ma tra l'altro guarda che i gruppi di Roma, sì, non voglio di tutti, ma insomma una buona fetta dei gruppi di Roma è passata sotto le sapienti mani di Bruno. Esatto. O fonico sul palco o fonico al mix, insomma, sì, o, ma comunque anche studio, molti, insomma, Forma d'onda esiste da, saranno 20 anni, Flamini. De più, esatto, e pensa che noi non siamo neanche di Roma, cioè, esatto, capisci? Questa e è... questa sera ci sarà anche lui, sarà in azione con noi e con Giuliano. Cioè, ma è il settimo stasera intifada, dal stasera vivo, intifada. Cioè band, sì, band, assolutamente live, certo. Band, live concerto. Noi suoniamo solo dal vivo, ecco, questo sì, no, perché sai, ci sta molto pure la cosa dei sound system, quindi molto spesso si va ospiti casomai sulle con le basi. Ma certo, certo, certo, questa è una cosa che è un'informazione, è capitata varie volte ed è con Fratelli Romani, con Sound di Roma, quindi ricordiamo Tsunami Massive, quindi tra l'altro scusa di Tsunami, esatto, volevo dire che sabato viene presentato il loro CD anche, esatto, hanno fatto una cosa insomma in pompa magna con adesso tocca a Daddy noi Teddy Freddy, sì, insomma ospiti da fuori, da Londra, un paio di ospiti, pare General Levy, insomma ma Phenom fa il panico da sempre, Adriano, esatto, Bono appunto a Raina, insomma vari personaggi, Rastablanco, insomma vari personaggi, sì, ma Rastablanco sì, e Giulio, esatto, Giulio Clandestino dei Radici, entrambi ci saranno comunque con voi stasera? Sì, sì, diciamo che appunto loro verranno a rappresentare i Radici nel Cemento con noi sul palco e diciamo c'è questo legame, questa unione molto molto forte. Quindi come vedi, vi aprono il concerto dei Radici nel Cemento. Che se vuol dire così, no vabbè. Sarà una big combo. No, dai, era uno diciamo scherzo ovviamente, che... però sì, insomma è una cosa importante. Quindi voi farete anche i brani del loro ultimo CD, 7, che li suonate voi e loro li cantano? No, allora abbiamo fatto una selezione insieme a loro dei brani, dei migliori brani dei Radici nel Cemento. La particolarità dov'è? Che noi non eseguiremo delle basi, quindi dei rhythm su cui i Radici si esibiranno, anzi noi suoneremo i loro brani così come sono stati scritti e arrangiati da loro, ma ovviamente con il nostro apporto, come li suonerebbero i Percezione Sesto Senso. Esatto, esatto, quindi ci sarà da divertirsi. Visto che appunto ci è venuto a trovare Flasco, che appunto ha militato nel progetto Neurologici Sound Brigade per pure te saranno 20 anni, Flamì? Sì, 20 anni fa. 20 anni fa saranno 20 anni, sono passati 20 anni? No, quasi. Vabbè, 19 due figure. Esatto. Comunque questo che ci stiamo ascoltando è un dub tratto proprio dal lavoro che è uscito recentemente, I Neurologici in Dub volume 2. Cioè, vuoi dire tu come si chiama la traccia? La traccia è Kassam Dub, dal sapore medio orientale, un dub molto particolare con questa ciaramella di Alessandro Mazziotti, il cinese, che è un altro personaggio fondamentale della scena romana di qualche tempo fa. Eh sì, vabbè, perché poi comunque gira rigira, non voglio dire che le facce che si vedono sono sempre le stesse, perché ovviamente la scena si arricchisce moltissimo, anzi è cresciuta in maniera esponenziale rispetto a 20 anni fa, che insomma veramente eravamo 4 gatti e quindi ovviamente ci conoscevamo tutti quanti, perché insomma le situazioni erano quelle. Certo. Perché poi comunque questa etichetta che appunto ha fondato Flaminio qualche tempo fa, ormai da due anni fa, è sicuramente molto attiva nella scena romana, ha fatto numerosi CD, ma tra l'altro il CD Dagli e Dagli di Giuliano, di cui abbiamo ripetutamente parlato, è venuto più volte qua Giuliano, e comunque anche lui è, diciamo, opera tua, nel senso sei tu la produzione. Sì sì, è un CD che abbiamo prodotto insieme io e Giuliano Lucarini, e che in qualche modo rappresenta quella che è la linea dell'etichetta, quella di unire generi diversi, di creare commistioni strane fra musicisti che vengono da percorsi diversi, e in percezione del suo senso in qualche modo fanno parte di questo mondo, perché loro hanno un suono molto particolare che mi ha colpito, cioè suonano il reggae in una maniera molto personale, cioè hanno un loro suono. Un suono che è nato evidentemente dall'ascolto di generi diversi, a diversi percorsi musicali. Questa cosa mi ha colpito particolarmente. E allora, così continuiamo ad ascoltarci qualche brano da questo CD Koinè. Questa è la traccia numero 9, Sai. Rimani qui, Senti, ma invece una cosa che non abbiamo detto è anche un po' la motivazione anche di questa serata. Il disco è uscito appunto ad aprile, a fine aprile, e qual è la finalità della serata stessa anche economicamente parlando? Sì, la finalità di questa serata in particolare è la solidarietà. La solidarietà nei confronti delle famiglie colpite da una grave malattia, si chiama atrofia muscolare spinale, detta anche SMA. SMA, sì, brevemente. E la sottoscrizione della serata andrà all'associazione Genitori Famiglie SMA. Quindi all'associazione dei genitori, cioè non sì. Per la ricerca, pure perché sai, ma non sa mai queste ricerche pure come lo fanno. Sì, cioè, stiamo parlando dell'associazione genitori, e quindi cioè, di persone che casomai si trovano a avere un bambino che poi scoprono sì. Essere malato, e questo comporta grandi, gravi difficoltà, gravi perché difficoltà, è una malattia che non solo psicologiche, ma diciamo anche proprio contingenti. Cioè, casomai sono cure che costano, ti devi spostare, devi fare tutta una serie di operazioni, ci vogliono soldi, tempo. Sicuramente. L'associazione ha la finalità sia di sostenere le famiglie colpite da questa grave malattia, che anche di sostenere la ricerca, perché a tutt'oggi non c'è una cura per questo tipo. Ah, non ci stanno ancora. Non lo sapevo. Vedi. E quindi sono 3 sì, euro la sottoscrizione, sono 3 euro, che andranno per questa causa, insomma, che siamo felici di aderire, insomma, perché sì, ci rende orgogliosi. Stasera in Intifada comunque ce ne sono state, ce ne sono anche adesso in questi ultimi mesi, ci sono una serie di serate. Domani a Napoli all'Officina 99 sarà una serata sempre con la stessa finalità, di sostegno all'associazione. Sì, ce n'è stata anche una qua a Roma, io anche per quello che può valere ho aderito. Nel senso che c'è stata una grande serata che ha visto riunirsi molteplici personaggi della scena musicale romana, nello specifico reggae, e quindi è stato anche un momento di unione, che sì, è sempre sì. Una cosa bella quando succede, ovviamente. Assolutamente. Quindi domani sarà a Napoli, c'è stata anche una mostra fotografica, ci sono sì, una serie tante iniziative sono su questo tema, per sostenere sempre l'associazione genitori, perché diciamo che anche dei ragazzi, cioè questo viene anche da una coppia di ragazzi che comunque casomai molti di noi conoscevano, che hanno scoperto che il bambino ha questa malattia, e quindi ovviamente poi uno si scontra e hanno avuto la forza di sensibilizzare anche. Sì, la cosa bella è l'affrontare questa cosa collettivamente, che mi è piaciuta particolarmente, che sono riusciti ad affrontare questa cosa collettivamente. Su questo hanno tutto, dato tutto il rispetto. Speriamo anche un concreto aiuto grazie alla serata di questa sera. Va bene, allora continuiamo, ci sentiamo sempre un brano da Percezione Sesto Senso, questo Coine. Io poi, regà, oggi mi sono portato questo CD, quindi questo ci sentiamo, e la traccia numero 4 insieme appunto a Giunio Clandestino dei Radici nel Cemento. Faccio niente di male, sempre a parlare, ho bisogno di cantare, non ho niente di male, faccio niente di male, la tua mia razza è il mio pane quotidiano, ma non niente di male, faccio niente di male, sempre a parlare, ho bisogno di cantare, non ho niente di male, faccio niente di male, la tua mia razza è il mio pane quotidiano, ma è divertente osservare ogni tuo sguardo. Io resterò per sempre un tuo ricordo. Quando cammino per la strada indisturbato, pensi che il mio sia un percorso già segnato, ma la realtà che spesso si presenta è avvelenata da una scatola di plastica. La tua esistenza la reputi normale, ed io non ho che questo modo per gridare che no. Dallo specchio avresti modo per avere più rispetto, per chi comunque alla fine non si arrende ad affondare nello spettro del presente. No, niente, lo inutile che me continua a prendere. Non sogno in una stanza e non un niente, una pace, niente è male. Se per parlare ho il bisogno di cantare, non ho niente, una pace, niente è male. La tua ignoranza è il mio pane quotidiano, ma non niente, una pace, niente è male. Se per parlare ho il bisogno di cantare, non ho niente, una pace, niente è male. Senti, ma ci dici un attimino questa questa combination da dove viene, insomma, come sì. Nasce anche? Sì, questa come nasce? Diciamo che è nata un pochettino dalla mia attitudine ad essere pressante e convincente, perché io vengo appunto dall'ascolto del reggae, quindi la scena reggae romana è comunque un punto di riferimento per chi ascolta questo genere in Italia, quindi diciamo che l'ascolto dei radici appunto fa parte di questa diciamo di questa estrazione culturale. E allora trovando su Facebook il contatto di Giulio mi sono proposto, ecco, come dire. Senti, allora aspetta un attimo, Giulio, ci stai? Eccoci qua, l'incursione. Ah, ecco, perfetto. Nominato e visto, diciamo, in Abruzzo. Mi hai evocato, sì, io, però non sono ancora morto. No, è un'evocazione terrena, dai, noi siamo. Ok. Esatto. Anzi, è un extrasensoriale, cioè sesto senso. Ecco qua, io lo sapevo che si andava a sbattere sul sesto. Sono mezzi sciamani delle montagne, sti percezioni del sesto senso. Che sta attenti pure a come i tratti. Sti rugantini del corno piccolo. Ecco, il rugantino del corno piccolo, qua, è un macello. Senti, stasera ci stai pure tu, Giulio, alla sera d'Antifano, l'ho sentito, eh? Sì, no, non me la faccio mancare questa esperienza così particolare. Percezione di questo senso che presentano il disco a Roma e che per la prima volta in 20 anni ci capita di suonare dei pezzi, di cantare dei pezzi dei radici, non su delle basi o su delle cose un po' improvvisate, ma su appunto la musica riarrangiata per l'occasione da loro, però insomma i pezzi sono proprio i nostri, quelli si sono studiati 8-9 pezzi nostri, hanno fatto le prove, sudato ore e ore, esatto, per farci cantare al meglio i nostri, cioè io sono già adesso sto piangendo, figuratevi, questo, quindi mi compro un sacco di Kleenex, me lo porto lì. Quindi insomma veramente una versione anche inediti dei pezzi, diciamo, tuoi e di Rasta Blanco e dei Radici nel Cemento. Ci sarà anche Rasta Blanco, appunto. Sì, sì, ci sarà Giuliano, insomma, una bella reunion. Esatto. Sì, una reunion, se saranno i neurologici, non so chi ci sarà esattamente in rappresentanza, però insomma lo spirito neurologico sarà presente, anche la musica, perciò sarà veramente una serata dove non manca nulla, dall'impatto acustico delle percussioni di Giuliano Lucarini, che lasciò i Radici tanto tempo fa per prendere la sua strada, le nuove sonorità di Percezione, le vecchie solite canzonacce dei Radici strillate là sopra, perciò c'è un po' di tutto e secondo me sarà una serata veramente speciale. Invito tutti quanti quelli all'ascolto a non farsela sfuggire per niente. Infatti, al mondo. Infatti io lancerei un appello, diciamo, ai veteran, insomma, della scena reggae romana e soprattutto agli ascoltatori un po' più, diciamo, sulla oltre i 30, perché comunque ci sarà un ritorno un pochettino a quello che era la scena di qualche anno fa, e quindi questa unione sul palco, questo scambio, diciamo, che è una cosa comunque interessante, comunque nuova, quindi sì, nuova, interessante, stimolante, che nasce soprattutto dalla passione, dal cuore, quindi io comunque inviterei ognuno a non farsi mancare questa occasione, a tutti in generale, quelli che stanno a apprezzare le serate live dove c'è parecchia fisicità in gioco, a tutti gli amanti del reggae in generale, perché comunque si potrà ascoltare la musica a levare in diverse modalità, appunto dal dub elettronico che ci sarà più tardi, penso, dei neurologici, a tutte quante le versioni roots, meno roots, più roots, ska, eccetera, dei percezioni o dei radici, perciò e comunque sarà una serata molto interessante e in più sarà speciale probabilmente, come dicevi tu, per diversi veterani che magari ricorderanno pure loro con un minimo di nostalgia forse a lacrimuccia che tireremo fuori oggi. Però insieme ai veterani, perché no, anche tutti quelli che si accostano al reggae adesso da poco, insomma, perché è un'occasione come poche in una serata sola di vedere appunto veterani e nuove leve che si mischiano e che poi la cosa bella la cosa bella è proprio questa, cioè che io personalmente, come anche tanti altri, si sono avvicinati all'ascolto del reggae con gruppi come i Radici nel Cemento, Neurologici. Ecco, quindi questa cosa è particolare ancora di più anche per questo motivo. Beh sì, direi che aggiunge una cosa ancora più particolare al tutto, e che è propria di tutti quei generi musicali, di tutte quelle esperienze musicali che nascono dalla strada, dal basso, comunque, insomma, dove c'è tanta passione in ballo, perché la passione ovviamente c'è sempre, sai, tutti quanti dicono e fanno le cose per passione, ovviamente sì, però ce n'è più o meno in gioco a seconda di tante cose, e per quanto riguarda il reggae specialmente allora ce ne voleva veramente tanta e anche adesso, perciò insomma di passione sarà gravida questa serata, perciò insomma è una serata da cuori forti. Senti, tra l'altro vabbè, il CD lo stiamo ascoltando, è proprio reggae, suona bene, vabbè, insomma mixato da Bruno, comunque appunto dietro c'è anche la produzione di Flaminio, quindi comunque personaggi del reggae. Il CD è proprio reggae, ovviamente. Posso interrompere un secondo? Vai. Solo perché ci tengo appunto a, mi ha dato l'occasione, tra l'altro anche il disco nostro appena uscito è passato dalle mani di Bruno. Ma infatti no, io ti volevo poi portare anche là al CD, ma anche al fatto mo sabato poi viene presentato pure il CD della Tsunami Massive. Ovviamente sono anche generi che sono un po' diversi, ma insomma stiamo parlando della stessa un po' grande famiglia. Da poco è uscito il vostro set, tra l'altro io lo stavo a dire prima, settimana prossima c'è state voi, lo sai, sì. Ottimo. Perfetto. Sì, verrà Giorgio Rasta Blanco qua, sì, fisicamente. Però riesco a avvicinarmi anch'io, altrimenti mi ha telefonato. Appunto, della FAMO. È bello che stanno uscendo tutti questi lavori, cioè è anche un momento, no, positivo da questo punto di vista, perché appunto coi tempi lo sappiamo, il CD insomma, a parte che non ti permette, una forse manca autosostenibile, forse manco si autosostiene, quindi appunto è proprio un segnale anche che la passione continua, un momento in cui tutto è più digitale, escono i CD. Cioè è un momento lavorati in analogico, tra l'altro, perché questa è una cosa importante che va detta. Diciamolo. Perché diciamolo, esatto, perché forte, questi chiaro, molto questi suonato, tutto suonato, suonati dall'inizio alla fine. Corde che saltano, che vengono cambiate, dita che se, esatto, che male, esatto. Corde rotte durante le registrazioni, queste sono cose che sì. Andrebbero ascoltate. Faremo un CD di soli errori. Sarebbe dicendo che non c'è bisogno, perché insomma siamo abbastanza, gli errori li spargiamo volentieri sia nei CD che nei live proprio, ma no, apposta, okay, perché ci teniamo al lato umano. Guarda, si sminuisce sempre. Guarda, che tendono sempre a dire ma no, ma le canzonacce, no, ma comunque bisogna dire che appunto sono casomai situazioni diverse. Comunque i Radici nel Cemento hanno presentato qua a Roma, insomma dalle parti loro, diciamo così, il CD in un seratone insomma importante, numerosi ospiti, insomma, che ho rosicato tantissimo, che stava in Abruzzo felice e contenta che ballava. In più secondo me è stato anche molto forte il gesto di dare il CD con l'ingresso, cioè alla fine è un gesto che ovviamente si può permettere casomai una band come Radici nel Cemento, che esiste da tanti anni, ha un percorso consolidato certo e comunque anche la serata vostra in qualche modo essendo dedicata a sostenere l'associazione delle famiglie dei bambini malati di SMA, comunque anche quello cioè sono sì, indici in qualche modo anche di una scena forte, secondo me. Esatto e poi ci sono anche questi contesti che rendono possibile che determinate situazioni avvengano, come ad esempio appunto l'intifada di questa sera, sì, che si è assolutamente, anzi sono stati loro a dirci ragazzi cogliamo l'occasione per fare questa serata e la facciamo per l'associazione delle famiglie della SMA, quindi è stata una cosa anzi proposta da loro, che noi ovviamente abbiamo accettato di buon grado e siamo veramente orgogliosi e anche, come dire, siamo fieri di poter, certo. di poter suonare all'Intifada, di poter dare una mano, di essere sul palco con Giulio e Giorgio, con Giuliano, insomma, questa per noi anche a livello personale, no? A livello di piccolo gruppo, insomma, che tenta di emergere, è una cosa molto positiva. È anche una soddisfazione. Certo, ma io scommetto che saranno anche in tanti quelli che coglieranno l'occasione sia per ascoltare buona musica e tutto quanto abbiamo detto finora, ma anche per partecipare a una buona causa e quindi venire a questa serata, anche se fa freddo e tutto il resto, per contribuire anche loro a questo obiettivo così importante. Beh, io Giulio, insomma, ti posso dire qua dalla regia che già un paio di persone hanno telefonato chiedendo da che ora si poteva, cioè chiedendo ma si può andare là e fare una donazione per l'associazione. Esatto, questo è importantissimo. Anche presto, casomai, ma pure prima che comincia, quindi perché ecco, è importante che si diffonda questo mood, perché insomma è importante anche che le persone vengano anche solo per fare la donazione, insomma, come dicevamo questi giorni su Facebook, era partita questo slogan, basta fare du zompi, esatto. Qui e venire lì. Esatto. Sì, la cosa fondamentale che sta alla base di tutto è sempre la partecipazione, la voglia di partecipare, di mettersi in gioco, di mettere in gioco quanto si ha a disposizione e si ha voglia e possibilità di mettere in gioco, comunque quanto si ha voglia di condividere con gli altri, quindi dandosi e dando parte di sé per poi ovviamente ricevere, ma non apposta per ricevere, perché è solamente quella la condizione in cui ci può essere un vero scambio, sì, e quindi poi dopo più ricchezza per entrambi, quando uno sta per dare e poi riceverà perché è giusto così, non perché è scritto o perché è dovuto. Perciò sì, alla base di tutto c'è la partecipazione e la solidarietà, che sicuramente fa parte dei contenuti di questa musica, come di tutte le musiche che hanno contenuto, e quindi non magari un po' meno quelle da discoteca, sai, dove l'obiettivo, sì, è solamente vendere e far sculettare, esatto, la gente. Ecco, infatti, è anche un modo per legittimare la funzione sociale del reggae, diciamo, che deve essere, che a mio modo di vedere è proprio questa, cioè rendersi utili, avere un ruolo nella società. Bravo, utili. Esatto, perché il reggae comunque deve essere uno strumento di evoluzione in qualsiasi forma la si vuole guardare, quindi è importante che il reggae abbia questi spunti di creare una coscienza, guarda, il reggae, ma non solo, e ti dico la verità, io da piccolo fans dei Clash, del movimento punk di quel tipo lì, ho letto diverse biografie eccetera, e mi ricordo che lui stesso ci saccaniva molto su sto fatto, che secondo lui il vero artista completo, veramente, insomma, quello che è veramente degno di onore e gloria è quello che fa musica non soltanto per degli obiettivi pratici che gli interessano a lui, ma per essere utile, diceva proprio queste parole, utile alla società, essere utile agli altri, essere utile alle cose che vanno male, essere utile, esatto. Perciò senza mai scindere una cosa dall'altra, cioè la musica è un'arte che quindi serve per creare piacere, per far star bene le persone, chi ballando, chi ascoltando, però nel momento in cui riesce a essere anche utile, là si aggiunge una funzione sociale molto importante, e quindi chi riesce a unire queste due cose, secondo me, secondo lui, ovviamente per primo, secondo me, secondo in tanti, specialmente la materia, che a quel punto veramente è il massimo. Sì, sì, sì, è fantastico. Piccolo fan, proprio piccolo, giusto un piccolo fan. Piccoletto, chi non l'ha visto mai. Lo so già nel cuore, sì, mi avete scoperto. Va bene, Giulio, allora ci vediamo stasera. Dai, Intifada. Tra l'altro comincia presto, no? Si mangia pure. Sì, questa sera è la cosa stupenda. Esatto, sì. C'è questa cena giamaicana che io adesso dobbiamo capire bene, esatto. Però c'è questa cena giamaicana. Aki e Soulfish, esatto, quindi c'è una pietra sopra. Ok, vabbè. Giulio, stavo di Aki e Soulfish, sì. Che fate? Esatto, un po' di pollo fritto, un po' di verdurine. No, Esatto, il Jamrock, esatto, che preparerà, insomma, ci offrirà questa grande cena, aperitivo, cena, chiamiamolo. Non chiamiamola pericena, perché no, è un termine orribile, è diciamo borghese e imperialista. È una cosa che... Esatto, no, è una cena, perché alle 8 si cena, non si fa l'aperitivo, alle 8 si cena. Quindi venite a cenare all'Intifada, ceniamo tutti insieme, ci abbracciamo e ci ascoltiamo un po' di buona musica. È tutto molto bello. Esatto. Volemos e bene. Va bene, bravo. Giulio, allora noi ti salutiamo. Ma senti, una cosa ti volevo dire, visto che ce l'ho qua sotto mano, il video di Movimento Lento spacca. Ma spacca proprio. Ovviamente fatto in casa come al solito, però pure lì ci abbiamo messo tanta passione e ci siamo divertiti un sacco. Cioè, ma la scena, insomma, il fotogramma in cui ti alzi come se ti dovessi svegliare. Capito. Cioè... Ma è anche un gran disegnatore di palloni, ma chi l'avrebbe mai detto? Mi hanno fatto fare l'attore, non credo capace. Tra l'altro, quelle scene lì sono fatte per la cronaca, così a casa di Bruno. Esatto, diciamolo che ritorna. Da 20 anni, a me ci ha registrato il nostro primo demo, penso nel 92-93. Perciò, considerate che Bruno mixò pure due pezzi del CD, appunto, Satta Records, In This Time, di Max Romeo, Tribù Acustica, insomma, con appunto, esatto. C'eri te, Giuliano, insomma. Diciamo, e lui ha mixato fece i mix, insomma, che a tutt'oggi stanno nel CD di Max Romeo, insomma, comunque, quindi un po' un amico. Bruno Abramo, a.k.a. Forma d'Onda, uno dei pilastri del reggae romano e non solo. C'ha Erdono, c'ha Erdono, come dice. C'ha Erdono, c'ha Armanico, lui è Bruno proprio. Infatti mo sta a montare per noi stasera e noi stiamo qua. Bruno è un grande, perché non solo è un grande manipolatore di suoni, c'ha un orecchio che veramente neanche i sorci sentono quello che sente lui, ma è uno anche che non si risparmia mai in qualsiasi cosa fa, perché anche lui dotato veramente di una spinta interiore che fa paura, c'ha una grande passione inesauribile, un cuore enorme, quindi... Ma infatti noi dobbiamo sottolineare questa nostra somma botta di culo, come, insomma, per dirla, nell'incontrare una persona come Bruno, che ha un concerto a Fiumicino tre anni fa ormai, Rifiuti Xerox Festival, fu un festival dove c'era Daniele Silvestri, il giorno dopo c'era Daniele Silvestri, noi suonavamo il giorno prima e Bruno ci conobbe lì, insomma, e noi entrammo ed era la prima data fuori dall'Abruzzo, per quanto ci riguarda. Ecco, quindi effetti, come hai detto tu, voi avete tante qualità, siete bravi, avete voglia di suonare, tutte quelle belle storie lì. Però Bruno è stato, come hai detto tu, un gran colpo di culo, perché comunque avere uno così che si appassiona al tuo progetto e ti aiuta ogni volta che può è un diciamo che la fortuna aiuta gli audaci, dai, mettiamola così. Bravo, vedi che il rugantino del corno piccolo c'è sempre un po' di lavoro. Dai, va bene, dai, a stasera allora. Va bene, a stasera, e noi intanto ci ascoltiamo un Movimento Lento, appunto. Un abbraccio, fratelli. Ciao, ciao, un abbraccio. Ma incessante. Ciao, ciao. Cerco, ma che non trovo mai, violentemente lotto contro il tempo, tiranno dei miei guai, è il movimento lento che cerco e che non dura mai, quando rallento mi godo il tempo lento che poi svanisce in un momento, sai, è il tempo cuore potente, ma chiappa e me trascina come un ciocco che scivola a corrente, e se mi sforzo devi viaggiare più lentamente. E non scappo e devo correre più di prima, perché sta società è malata di ipervelocità, tutti in fuga dall'impegno precedente, e piove tutto e non fa se manca niente, poi tutti a correre presso un'altra attività. È il movimento lento che cerco, ma che non trovo mai, violentemente lotto contro il tempo, tiranno dei miei guai. violentemente lotto contro il tempo. Radici nel cemento, zin. Un CD chiamato 7. Voglio la libertà di regolare l'andatura, secondare il ritmo che mi batte dentro, come una vela che scivola nel vento. Vorrei solcare i sette mari all'avventura, ma me so arrivate 20 mail, me squilla il cellulare, c'ho l'identità virtuale che reclama dei campai, un gioco incastro micidiale, non se può scappare, produrre, consumare e poi ricominciare. Tempo sano che comincia proprio adesso, proprio qua, perché la vita è mozzico, tocca affilarsi i denti, assaporarla con tutti quanti. Comunque io vi consiglio di andarvelo a vedere il video su questi posti tremendi di Babilonia commerciale, insomma andate sul tubo e lo vedete perché è figo. Movimento lento dei radici. Violentemente lotto contro il tempo, tirando dei miei guai, è il movimento lento che cerco e che non dura mai. Quando rallento mi godo il tempo lento che poi svanisce in un momento, sai. Ma torniamo a Koinè e ci andiamo a sentire un'altra traccia. Questa è la traccia numero 8, Vele. Percezione sesto senso. Percezione sesto senso, mi piace il nome perché comunque si va a giocare sui sensi, no? Poi il sesto senso è comunemente associato a quello che c'è, diciamo, oltre le cose materialmente tangibili, dimostrabili, esatto, insomma, esatto. Legato a qualche cosa che non appartiene alle definizioni, comunque a... indefinibile, diciamo, sì, qualcosa di indefinibile, cioè sì, poi casomai sicuramente la scienza ha fatto le sue suddivisioni, tra virgolette, sì, sulle cose sensoriali, esiste tutta una catalogazione, l'extrasensoriali, non mi ricordo, sono due, tre, ma insomma comunque tipo la telepatia, per dirti, o certo, la preveggenza, non lo so, sono state classificate a prescindere dalla loro esistenza. Anche i sensi alla fine non sono 5, sono quelli comuni, sono 9 in tutto, però sì, nella percezione quotidiana i sensi sono 5 e quindi il sesto senso è quel qualcosa in più, è qualcosa legato, diciamo, alla spiritualità, al cuore molto spesso, esatto, alcune esatto, parti della mente. E da dove vi è venuto Mosso, nome, percezione, sesto senso? Proprio da questo, proprio da quello che hai appena detto. E forse non potevamo dare definizione migliore. Diciamo che questa unione di queste tre parole ci hanno. Anche la sigla, insomma, che si genera. Però invece è una parola sola, no? Mi dicevi. Sì, esatto. Percezione, esatto. Sesto senso, tutto attaccato. Sì, esatto. Quindi non devi più a fiato. No, okay. È tutto ad un fiato. No, perché le parole, io almeno ci sto molto fissa sulle parole, il loro significato, forse solo anche come suoni, il significato profondo che può esistere nel pronunciare una parola, ma anche da soli, mica per forza con qualcuno, cioè da soli in mezzo alla natura. O certo. Perché anche il nome del CD è particolare, Koinè. Sì, Koinè l'abbiamo pescato, diciamo così, tra varie proposte, varie, esatto, opzioni, e racchiude un po' il senso che è anche quello musicale del disco, in quanto, diciamo, è una parola che simboleggia l'unione di più, diciamo, correnti. Nella fattispecie era la parola che indicava l'unione delle lingue greche, diciamo la lingua comune condivisa dai, esatto, popoli della Grecia antica. Noi abbiamo, sì, ripreso, sì, ma questo termine anche in generale, proprio il corpo, diciamo, delle lingue, l'insieme, non lo so, della lingua, quella scientifica, sì, che voglio, sì, di quella parlata, quella scritta, sì, diciamo, ha un valore anche trasversale. Sicuramente la cosa che dici tu sulla Grecia, sì è la, molto, il semplice riferimento, diciamo, sì, con Alessandro Magno, la storia, esatto, di Alessandro Magno dal 330 avanti Cristo, più, esatto, o meno si fa risalire. La particolarità, diciamo, è proprio questa, cioè il, come dicevamo prima, i componenti della band provengono da retaggi culturali musicali molto diversi, quindi noi abbiamo ci siamo messi in testa di fondere tutti questi retaggi per proporre un linguaggio che parla di qualcosa che già c'è e che c'è stato, come il reggae, però con una veste nuova. Quindi è questa la Koinè, cioè riproporre qualcosa che c'era già, influenzato da tanti stili, in modo nuovo. Quindi è diciamo che lo spirito di Koinè, della parola Koinè, è questa. Quindi lo spirito è nuovo, ma le radici, esatto, sono arcaiche. Sono, parliamo una lingua da lontano, sì. Una lingua nuova, sì, che parte da lontano. È un po', diciamo, quello in cui ci siamo voluti imbarcare, appunto. Sì, esatto. Che poi, diciamo, esatto, il viaggio è anche un po' il tema portante di tutto il disco. Sì. Insomma, vi capiterà di vedere il CD, di questa prenderlo. Sera venite a comprarlo. Esatto, vedete il CD, la copertina pure è che... bella, la copertina è bella, anche il video è molto bello, anche voi avete fatto, sì, un video di quale traccia? Di Percezione, la, sesto senso. Percezione, okay. La traccia omonima. Il video, appunto, è bello, con tutti i collage, bello proprio. Sì, prodotto appunto da Flaminio e da Clash, insomma. Vedetelo sul tubo, è un'esperienza sia visiva che... Ha colpito parecchio anche noi, perché, sì, a noi questo video ci è stato proposto, ci è stato detto: ragazzi, che dite? Noi siamo rimasti veramente colpiti, sì, perché abbiamo detto: accidenti, è qualcosa di forse addirittura più grande di noi, se vogliamo proprio paragonare. Anche, insomma, sul pezzo stesso, che comunque, esatto, si permette di riprodurre le sonorità roots. Sì, infatti, quindi possiamo dire: venitevi, che abbiamo ascoltato, esatto, oggi all'inizio della trasmissione. Venitevi a godere questo viaggio con noi, perché comunque è... quantomeno c'è qualcosa di cui gioire. Esatto. Dai, io se ce la faccio me carico. Dai, tanto si mangia pure, no? Sì. Vengo là, rimedio, fosse il pollo alla jerk, fosse la soppressata, come diceva prima Giulio, va bene uguale. Basta. Grande. Che ci sta un goccio di vino. Ci sta. E andiamo. E allora ci andiamo ad ascoltare un altro brano, sempre dal CD Koinè. Accarezza il tuo viso, si riflette nel fondo dei tuoi occhi, sconvolgi il pensiero di chi ti osserva, vibra la mia anima parlando con te, assorbimi, stupiscimi, avvolgimi e riscaldami, apri la tua mano tra i miei lunghi capelli, prendimi nel sonno con un sogno mai finito, lascia l'odore del tuo corpo dentro il mio. Svegliami, stordiscimi, colpo di cannone. Abbatti, distruggimi, colpo di cannone. Svegliami, stordiscimi, colpo di cannone. Abbatti, distruggimi. facile provare a scappare. È sempre troppo facile provare a non guardare. La storia non si ferma davanti a nessuno. E se fuori ormai è buio, non è ancora buio in me. Sentirsi costretto come un leone in una gabbia. Apri la mia cella guardandomi negli occhi. Ascolta com'è dolce distruggere i confini, non muoverti. Respira lentamente, svegliami, stordisci, colpo di cannone, abbatti, distruggi, colpo di cannone, svegliami, stordisci, colpo di cannone, abbatti, distruggi, colpo di cannone, svegliami, stordisci, colpo di cannone, abbatti, distruggi, colpo di cannone, svegliami, stordisci, colpo di cannone. In questo CD abbiamo sentito sonorità differenti, anche se comunque diciamo la linea del basso è quella, il disco suona reggae proprio, anche se con numerose contaminazioni sia a livello di ospiti, personaggi, strumentisti, sia a livello proprio di stili musicali. Ma sicuramente la connotazione reggae, diciamo, la parte importante si vede dalla seconda traccia, insomma, è questa I Man Chun dedicata a Bob Marley. Sentiamo un po' che dicono i Percezioni. Dai. Di società, lunghi dread che solcava l'avvenir, un cuore nero, una chitarra per cantare, no, no, no. E allora noi ovviamente come al solito se siamo allargati, ormai sono le 5:20 qua a Via dei Volsci, a Radio Onda Rossa. C'è sta la Schiena del Sole che scalpita. Scalpita, scalpita. Quando No, ovviamente come al solito ci stiamo facendo la piacevole chiacchierata che cominciamo prima e quando è finiamo dopo, insomma. Poi ospiti questi ragazzi, appunto, è una bella situazione da fuori montanari. Siete montanari, sì? Non, proprio. Non proprio. Siamo vicini al mare. Sì, scusa, no, cioè stanno vicino al mare in Abruzzo. Io sono la reincarnazione di un'iguana, quindi cioè al mare vuol dire una cosa, in Abruzzo vuol dire un'altra. Ma stanno vicino al mare in Abruzzo. Non è Caraibi, vabbè, no, c'è mezzo metro di neve adesso. Ma no. Per arrivare al paese ci hanno messo meno 8, regà. Meno io stamattina non muovevo le dita delle mani quando sono sceso dal motorino. No, ma noi siamo vicinissimi al mare. Siamo e, a pochi chilometri. Molto vicini al mare e anche molto vicini alla montagna. Sì, siamo a 40 km da montagna e 10 dal mare, sì. Quindi siamo in collina, perfetti. Sì. Perfetti. Sì. Il vino è buono. Il vino è buonissimo. Esatto, sì, bisogna solo predisporre. Penso sia il migliore d'Italia. Il migliore d'Italia senza dubbio. Vabbè, dicono tutti così. Sfidiamo il cibo italiano, regà, spacca tutto. Veramente. Vabbè, ma la Bruzza. Qual è il vitigno dalle parti vostre? Montepulciano. Va bene, allora ci salutiamo con le percezioni. Tra l'altro, una cosa bella di questo Coenè è anche che è tutto in italiano, cioè almeno per come io vedo anche il reggae. Bravo. Purtroppo troppo spesso, cioè, per carità, è anche bello. Poi, naturalmente, non so, Brusco ha fatto delle canzoni in inglese pure bellissime. Cioè, però, diciamo, in generale, cantare in italiano ha la sua comprensibilità, fosse altro per quello dei testi, no? Sono una parte importante di questa musica. Sì, esatto, ma anche una scelta stilistica, cioè quella di usare la lingua italiana, che ha un suono meraviglioso per quanto riguarda la scrittura e che io sinceramente non cambierei con nessun'altra lingua. Anche se riconoscendo che l'inglese è indubbiamente. Sì, vabbè, ok, non cambieresti con nessun'altra. Sì. No, io voglio fermare un attimo. Cambieresti con nessun'altra lingua. Sì. Però il dialetto vostro ci sta nel CD. Certo. C'è sta, sì. Italiano, dialetto. Certo. Esatto. Sì. Perfetto. E allora ce l'andiamo subito a sentire questa traccia che contiene appunto delle strofe in dialetto. C'ha un nome questo dialetto? No, Atriano, ma. Atriano. Esatto. Okay. Dai. Yeah. Stragi di menti confuse dal male, Babilonia guida la nave, una la rotta, uno il confine, l'uomo che sa solo che non ha speranze, continua la lotta tra il bene e il male. Cioè, ovviamente non solo il cibo è il migliore, ognuno è il cibo suo è migliore in Italia, soprattutto dove vai, ma anche la storia, giustamente, ognuno dei Adri che stavate di, che ha dato il nome all'Adriatico. Sì. Anche Adria se la batte, anche Adria se la spingono sta cosa. Sono venuti dopo. No. Fratelli pugliesi. Sì, esatto, ma poi una regione che ha all'interno del proprio nome la parola roots, cioè voglio dire. Abruzzo. Esatto, è cioè, evidente che... Hai capito che considerazione che hai tirato fuori, Beh sì, l'Abruzzo è stata, diciamo, una delle zone più anticamente, si dice, insomma, ci stavano gli Osci, è accertato dal terzo millennio avanti Cristo, quindi comunque stiamo a parlare di società, insomma, che se la battevano coi Sabini, i Romani stavano ben lungi da... Sì, per quanto Roma sì. È grande, io comunque... vabbè, dai, mo vogliamo... non vogliamo... Esatto, capitale a capitale, punto. Però, ecco, diciamo, Atria ha una storia più lunga di quella di Roma, è stato un centro molto importante fino al Medioevo, quindi, insomma, ci siamo. Dai, allora ci portate pure un pochettino di... La provincia! Va bene, qua rischiamo grosso, come diceva Marta prima, a farsi discorsi, perché insomma poi va a finire che pure tra di noi, non ti dico se attaccamo, ma quasi. Quasi. No, nelle diatribe calcistiche. No, quello lo è. No. Io non posso, da 18 anni mi faccio le ossa qua, ma ho fatto pure gli sport, quindi non posso. No. Stupendo. Va bene, ragazzi, allora ci vediamo stasera. Rimetto da capo questa traccia che si chiama Come si fa. Dai. Babilonia guida la nave, una la rotta, uno il confine, l'uomo che sa solo che non ha speranze, continua la lotta. fra bianchi e neri, Rastafari regna tra il bene e il male. Popolazioni osservano il mare, sognano mondi e distanze infinite, guardano il cielo diventare scuro, immaginano vite migliori e diverse. Ascolto il segreto racchiuso nel mare, alzo gli occhi e avverto la gloria di già. Apri la mia mente, ascolta il mio lamento, per sempre lotterò cantando. Come se fa, come se fa, come se fa a starsi zitte senza parlare. Come se fa, come se fa a non guardare sto mondo che si sta affonda. Tutto quello che desideri è chiuso in un respiro, corroso dalle false sirene di un mondo sabbioso. La rivelazione, la forza, la sostanza, l'occorrenza, montagne di aspirazioni, ma un grigiore senza fine. Ribalto la mia posizione, mi rimetto in gioco sempre, nel silenzio di un motore spento, la mia luce è una scintilla. Accende un fuoco che emerge dal fondale di un mare nero. Hai mai provato a sopportare il peso dell'apparenza? Come se fa, come se fa, come se fa a starsi zitte senza parlare? Come se fa, come se fa, ma non guarda sto mondo che si sta affondando. Come se fa, come se fa a starsi zitte senza parlare? Allora direi che mi piace questa situazione per cui cominciamo chiacchierando, non c'è nessuna sigla, insomma, io sono la sua sigla di chiusura e tu sei la mia sigla di inizio, eh? E vabbè, appunto, noi non la volevamo mettere, ho fatto subito la cacciata del momento, perché insomma in tema di reggae un compagno che sta in Spagna adesso ci ha inviato un bellissimo brano e ha messo su insieme a tanti artisti che partecipano al Rototom, che sapete insomma ormai più in Spagna sicuramente. E no, parla di Bonifax, però che è italianissimo. Che è italianissimo, cioè uno di quegli, esatto, insomma. E un bellissimo reggae contro la intolleranza. E allora, come dare continuità meglio di così? Va bene, quindi famo il vero melt away tra una trasmissione e l'altra. A nadie, unity lo reggae es la clave. Vivimos en la era del mestizaje. Que el mundo es muy grande y no sobra nadie. Deja tu diferencia, la lleve el aire. Puede que mis palabras en ti se claven y solo con tus actos tienes la llave. Todo el mal que te hicieron, sé que en tu cabeza hay miedo y frustración. Culpas a cualquiera por tu mala situación y te das por vencido sin buscar solución. Bestia no se muere, solo duerme. Para vencer hay que darle donde le duele. No usamos armas, arte y poesía son nuestras balas para que crezca la conciencia. Abre los ojos. Por los rasgos de mi cara, ¿cuál es el problema del espesor de mi boca? Porque te preguntas por el color de mis ojos, porque me preguntas por el tono de mi piel. No soy blanco ni negro, no soy rojo ni amarillo. Corren por mis venas sangre de color mestizo. Solo soy tu hermano, ya ábreme tu corazón. Para los prejuicios ya se usó de la razón. Por más golpes que te den, nunca abrirán brecha. Y cuanto más cuesta avanzar, mayor es la recompensa. Intentarán pisar, humillar, te venden humo, te pondrán trabas. Huye del falso, de los hipócritas, no te contamines en Babilonia. Así cuántas veces caerás, yeah, yeah, yeah, yeah. Levántate mi frente. guardo mi tolerancia, aunque hay gente que esto le resta importancia. A medida que el tiempo avanza, pierden el equilibrio en la balanza. Yo, abre tu mente, limpia tu alma y recuerda, no cargues prejuicio en la espalda. Y estas son como arma blanca y cuando se clavan, la comunidad sufre y sangra. Una vez más, Mickey les canta, pa' que levanten sus palmas, gente, digan basta, escuchan lo que dice el Rasta. Time is the master. Lucha contra la intolerancia, con tu mente y no con violencia. Abran los ojos, quítense la venda y olviden las diferencias, mi tendencia. Abre los ojos, abre tu mente, piensa diferente. La tierra, la sal, el pan y la vida, lugares comunes, caras distintas, debates estériles en un mundo enfermo. El banco central, el dólar y de el nada euro. Sirve maltratar a nadie, de nada sirve odiar. Problemas de intolerancia no nos van a agobiar. Oh, racismo, fascismo, clasismo, tú mismo, pero aquí todos somos lo mismo. We love ya, no más xenofobia. A veces el remedio es darle amor al que odia. Seremos esa historia que enseñar a nuestros hijos. Paremos xenofobia y resolvamos acertijos. El ayer es el hoy del mañana, sufrimos guerras, las injusticias se pagan, la educación nos salva y existe una paz, conoce, comparte y combate la ignorancia. Más allá de las diferencias, podemos encontrar nuestra propia esencia, tanto tú como yo, podemos compartir el mismo ritmo. Cantando la misma canción. Para todos los hombres y mujeres lo mismo. Hay que hacerle la guerra al racismo. Para todos los hombres y mujeres igual. En este mundo somos todos igual. Por eso piensa diferente. Por eso abre toda tu mente. Por eso educa a toda la gente. Porque los hay que tienen que aprender. Como para aquellos que tienen poder. Como para aquellos que quieren joder. Como para aquellos que no dejan comer. Que son los que no alcanzan a comprender. Que todos nacen igual y todos mueren igual. Y todos aman igual y todos sufren igual. Para que todos lo sepan, eso es lo normal. Siempre pon el bien por encima del mal. Tienes derecho a marginar, cambia tu rol, date cuenta ya. El reggae es paz, amor y unidad, por encima de creencias y sexualidad. No me gusta hablar por hablar, nosotros somos gente de verdad. La homofobia aquí no tiene lugar, ni el racismo ni el fascismo tienen capital. Hace tiempo queríamos cantar esta historia que debe de acabar. Quítate la venda, abre ya tus ojos ahora. Verde, amarillo y rojo, así que todos somos igual, el color de la piel no importa. Fuera fronteras, fuera maldad, fuera el hambre de la humanidad. Yeah, yeah. En este mundo precioso y diferente, hay algo que no todos tienen presente. Es algo elemental que es la misma gente, la que poblamos este mundo de mente. Y nada importa el color de tu piel, ni si tus ojos son como la miel. En todo el mundo se ama la gente, y no hace falta ese rollo excluyente. Despierta ya, esta es la canción. Sonido rebelde en tu magnetofón. Despertar conciencias es mi misión. Golpe a golpe, escalón a escalón. Y juntos acabar con la discriminación por gusto sexual, raza o religión. Que todos somos iguales, no hay excepción. Respeto es la base, la única dirección. Abre los ojos, abre los ojos. Apre tu mente, pensa differente. Insomma, questo era il bellissimo reggae contro la intolleranza e vogliamo continuare un po' sulla stessa onda. Infatti Alguacil dalla Colombia, un altro grande artista tra la cumbia e il reggae, grande smanettone di remix, anche lui ha voluto tirare fuori un brano dedicato a tutte e tutti i rifugiati di questo mondo, sempre di più, sempre troppi, non ne vogliamo più neanche uno. Cruzando ya en un río, selva y cordillera, llegando a la gran ciudad en busca de nuevas fronteras. Refugiados pisando tierras en nuevos países, tratados como ilegales, miles quedan invisibles, olvidados. Fantasmas desterrados sin documentos en el exilio. Refugiados para todos los polizones. Refugiados para todos los clandestinos. Refugiados para todos los desplazados. Refugiados para todos los inmigrantes. Refugiados para todos los polizones. Refugiados para todos los clandestinos. Refugiados para todos los desplazados. Refugiados, refugiados, ah, refugiados. Refugees from the third world and South America, Colombia, Jacka. Enjaulados andan en los campos del olvido. Miran al lado pero no encuentran el camino. Desesperados en su vida que se escapa día a día. Año tras año pero la esperanza no está perdida. Refugiados, e allora era Alguacil accompagnato veramente non so bene da chi altro. Las consecuencias de ese partido, lo que está padeciendo el país es la consecuencia de un partido ladrón, corrupto, inepto, cínico, de 70 y tantos años, ¿no? Y pues eso me sigue preocupando, pero ahora ya me hartó, ya me cansó. Ya nos cansaron. Claro, pero ¿por qué llenar su cuerpo de plomo cuando pudiese? Luis se llama Choco. Alto de lo que llaman Latinoamérica, cerca del imperio yanqui su novela tétrica. Su era de cólera caerá y será devastada, y ganarán los que no tenían nada. Vengo del suelo, de la tierra y la semilla, de la calle, del valle y de la villa. Vengo de todos los barrios, no solo de uno, donde antes de hablar hay que escuchar hasta los mudos. Del mundo artificial, donde todo es digital, donde las cartas de amor no van en servicio postal, donde secaron los ríos y llenaron de cemento, construyeron tuberías y le llamaron progreso, donde inyectan enfermedades y venden curas, y al que dice lo que piensa lo censuran. Solo pocos dan cara por la cultura y el Estado te amenaza con torturas. Vengo siguiendo al cóndor, montado en el águila. No se come a la serpiente, se fusiona y vuela. Yo soy de las hormigas rojas, de la pluma del quetzal, de las ramas y las hojas del cerro, al que le pusieron dinamita, de la tierra que tiembla cuando se agita. Queremos evolución, no progresos. sabemos respetar los procesos naturales. Voy con el rezo que es la voz de nuestra esencia, por la libertad, por la tierra y la conciencia. Voy con la vivencia de las tradiciones, agradecer a nuestra madre por todas sus bendiciones. Que las acciones sean ofrenda, que crecer dependa de nuestras intenciones. Que las pasiones sean del alma y que la sanación se expanda a todas las naciones. Canto, canto, canto a la revolución. No porque sea la solución o la única opción, es porque ahí está mi corazón y genera esta reacción. Por eso yo canto, canto, canto a la revolución. No porque sea la solución o la única opción, es porque ahí está mi corazón y genera esta reacción. Por eso yo voy. Con la flor de los pueblos en resistencia, con el fuego encendido de nuestra herencia, el espíritu guerrero, sanador y mago, ensoñador, cantador, el poder creador. Voy al viento del maracame, el canto, y siento el llanto, el aliento de los santos, el espanto de tanto y tanto que hace tanto que nos mantuvo limítrofes, maniatados sin pies, con dos ojos cerrados cuando tenemos tres festes. Ni en el revés te ves, ni en el revés te ves, ni en el revés te ves, ni en el revés te ves. Voy con el grito que enardece a nuestra generación, el mito desaparece para la liberación de la razón. El despertar de esta revolución es manifestación de una real transformación. Por eso yo canto, canto, canto a la revolución. No porque sea la solución o la única opción, es porque ahí está mi corazón y genera esta reacción. Por eso yo canto, canto, canto a la revolución. No porque sea la solución o la única opción, es porque ahí está mi corazón y genera esta reacción. Por eso yo voy. Historias, no dígitos, cantando con memoria sin creer en los políticos. El sistema está jodido, compas, por eso en Medio Oriente no dejan de caer bombas. Colapsará, caerá, el volcán se liberará, se librará una batalla más y el pueblo vencerá. Por el hambre y la sed, con coraje y con fe, canto a la revolución del ser. E allora anche un po' di pop, questo era il canto alla rivoluzione de Choco. E allora per fomentare così un po' di ribellia in tutte e tutti noi. Loro sono Calle 13, fa che sia viral. Perché diventi virale la nostra resistenza multiviral. Camarada, quando despedimos llamas de nuestras miradas, quieren detener el incendio que se propaga. Pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policiaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Le 17:43 minuti intanto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, una radio libera, senza padroni, senza pubblicità. Somos amigos. A cui potete dare una mano sottoscrivendo al conto corrente postale 61 80 40 01, da intestare a Radio Onda Rossa o Cooperativa Laboratorio 2001 de papel. In via De Volci 56 00 185 Roma. Cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos... Te piace, eh? Mi piace. E poi, oh, sta arrivando a dicembre, che per qualcuno è Natale. Qualcuno c'ha pure ancora la tredicesima, ormai pochissimi rimasti. Ma per molti, moltissimi, è la scarceranda, cioè... Per forza, ieri tra l'altro appunto c'è stata la prima, credo sia la prima, era. Certo, dell'anno, insomma, è arrivata. Piano piano, adesso dobbiamo riempire un po' lo stanzino delle casse di scarcerande e quaderni.